Elba, 5 settembre 1967. Care Eleuterio, sono qui con il mare davanti, ancora turbata per via delle tue reazioni di sabato scorso. Esagerato. Sull'acqua un'alga galleggia strappata alle profondità. E io penso che un'alga non è altro che la villa borghese dei pesci innamorati. E penso anche di te cose che non posso dire per via delle cose che hai detto. Sabato, quando verrai, ti dimostrerò che non si semidistrugge un albergo solo perché qui c'è la consuetudine di festeggiare il mare. Sempre tua. Roma, 6 settembre 1967. Implacabile sempre mia. Hai ragione. Non si semidistrugge un albergo per la festa del mare. Si dovrebbe distruggere chi l'organizza. Ma siamo sempre lì. La distruzione di una donna, anche se come te, è punita dalla legge. La legge non ha moglie. Ma tutto sommato sono meno arrabbiato del solito. Settembre mette fine alle ferie e metterà fine anche alle tue pazzie. Eleuterio. Ho scritto. Ha telefonato tua madre per avere tue notizie. Incredibile. Ha parlato tutto il tempo con una voce squisitamente femminile. Elba, 7 settembre 1967. Care Eleuterio, scià, per dimostrarti quanto tu mi sia straniero in questo momento. Sono qui con il mare davanti e lo guardo con tristezza perché si avvicina la fine. Non ti illudere, Eleuterio, la fine delle mie vacanze. Una ragazza distesa sull'acqua fa il morto a galla. E io penso che quella ragazza è un pezzetto di carosello per reclamizzare un materasso a molle, grande, azzurro e bagnato. Qui si parla ancora della festa del mare e del tuo carattere pestifero. Fai spolverare casa per quando tornerò. Sempre tua. Roma, 8 settembre 1967. Intraducibile sempre mia. La portinaia ha spolverato casa. Adesso stiamo aspettando il camion che venga a portar via la polvere. Continui a minimizzare dicendo semplicemente festa del mare e tralasciando i particolari. Sabato, quando verrò, ti rinfrescherò la memoria. Ho dovuto vendere dei titoli per sistemare la faccenda. Il mio carattere non è pestifero. È pestifero e sanguinario. Eleuterio, ho scritto. Volevo ben dire. La voce squisitamente femminile che si informava sulla tua salute al telefono non era quella di tua madre. Era quella di tuo padre. Elba, 9 settembre 1967. Care Eleuterio, Micione, il mare è sempre davanti, il che vuol dire che io gli sto di fronte, il che vuol dire che sono una fedele e coerente. È passato adesso l'omino che vende patatine fritte e io penso che le patatine fritte non sono che scricchioli in sacchetti di cellofan. Ricordo tutto, Eleuterio. Non dico i particolari perché è inutile. Quando uno dice «ho letto un libro», dice solo il titolo del libro, non racconta quello che c'è dentro. Però se lo ricorda. E io pure mi ricordo tutto. Eravamo, come sempre, ad aspettare la cena. Eleuterio, in fondo il mare è un cielo di sotto. Sì, cara, i tuoi piedi sono il tuo cervello di sotto e anche di sopra. Incredibile come per te il tempo non passi. Grazie, caro. Prego, sei rimasta alle Montessori come ragionamento. Si mangia? Sì, Eleuterio, ma prima guarda che cosa ho per te. Che cos'è? Non lo vedi, Eleuterio? Un forchettone. E che ci devo fare io con un forchettone? Non è un forchettone, è un tridente, il distintivo di Nettuno. Fammi vedere come ti sta. Come mi sta, in che senso? Dove? In mano! Perfetto, hai proprio la faccia di Nettuno. Ma che significa tutto questo? Perché ho la faccia di Nettuno? Che vuol dire? Vuol dire che domani c'è la festa del mare e tu impersonerai Nettuno e dall'alto dei tuoi cavalli marini distribuirai pesci e conchiglie ai presenti. Dall'alto di che? Dei cavalli marini, ma non sono proprio cavalli marini, si tratta di un motoscafo truccato. E io dovrei apparire vestito da Nettuno su un motoscafo truccato da cavallo marino. Sì, Eleuterio, ma truccato bene. Pensa che lo scultore ha fatto un gruppo meraviglioso per sole 500.000 lire, materiale a parte. 500.000 lire? Sì, ma non ti preoccupare, è già stato pagato da me con i soldi che mi ha prestato la mamma e che tu le renderai con comodo, domani sera. Eleuterio, non ruotare il naso, mi fa senso? E ti farà ancora più senso vedere ruotare tua madre. La vedrai ruotare sul forchettone 500.000 volte. Posa il forchettone, voglio dire il tridente, Nettuno. E non chiamarmi Nettuno, criminale, io. Un uomo che ha raggiunto una posizione vestito da Nettuno. Spogliato da Nettuno, Eleuterio. È lo stesso, spogliato da Nettuno, a distribuire pesce e conchiglie. Ma d'argento, Eleuterio! Sono ciondoli che ho fatto fare apposta! E naturalmente li devo pagare io! No! Li ha già pagati l'albergatore! Lo dovrai solo rimborsare! Metti giù quel tridente! Aiuto, concierge! Picchialo, infissalo, lupisci spada! Avvicinalo, fiocinalo, lupisci spada! Taglia la balena, balena, lupisci spada! Balena, lupisci spada! Balena, lupisci spada! Eleuterio, ricordo tutto. Stavamo aspettando l'ora di cena e per un tridente hai fatto il diavolo a quattro. Ma sabato quando tornerai non ti dirò niente. Non starò a recriminare. In fondo ti voglio bene, perciò ti verrò incontro sorridente e piena di premure. E ciao. Bentornata, Eleuterio. Tra poco mangeremo. C'è di là quello dei fuochi che ti aspetta per la fattura. Anche se il Nettuno lo ha fatto il ragioniere, ormai i fuochi li avevo ordinati a tuo nome.